Sì, sì. Platine. Platine. Ebbè, fufia! Ha detto Platinette. Tu che li è? Ebbè, Peppa, vai a scattare un pesce. Stai qua, fufia. Vieni a scattare un pulpo. Manuè. Claudio, mi senti? Sì, già ti sento, tu mi senti? Attrati perché sono dentro, capito? Sì, già sono qua. Vediamo un po' da qui, adesso sono affacciato alla finestra, mi ascolti meglio, Claudio? Però arrivi spezzettato, come mai? Come spezzettato? E adesso? Spezzettato mi senti? No, adesso no. Adesso mi sono avvicinato dove c'è la finestra, dai, adesso ti ascolto. Però l'unico che arriva bene col portatilino è Luca, deve essere che c'è qualche varco per me, E già la sposto da lì l'antenna. E dove ce l'hai adesso l'antenna? È al centro terrazzo, bassa. Ma devo fare dei lavori, capito? Già faccio degli spostamenti. Ehi, andave, comunque mi ascolti bene, dai. Gappa. Bene, tu non l'hai sentito qua? No, sentito no, ci siamo visti stamattina per un caffè. Lo so, l'ho sentita stamattina e poi gli ho detto se si faccia sentire in radio. Non lo so se entra in radio, cosa vuoi dire? Non lo so cosa doveva fare, stava mettendo a posto sotto la veranda. Andare. Va bene, io attacco l'antenna manda, dici vuoi dare un mego perché non ti sento, Ho staccato tutto qua, Perché? Come mai? Devo fare dei lavori, adesso devo staccare anche l'antenna, questa qua della 27, il cavo l'ho già staccato. Azzurriaro, tutti i travagli dove ti va, lavorate. Ho detto a Tonino, se ce la portava via, ha detto che è troppo lunga, pazienza. Perché non si può smontare quella? No, la deve portare via così. Cazzo, in che seguivi e dove fosse stata strada dritta, ma con quelle curve come fai? Piegata un po', già si può fare qua, piegarla un po' non si spezzano. Messa da dietro, fai un metro e mezzo fuori dal cofano. E poi l'altra, il davanti dove c'è il cofano della guida, piegata. Marco se ne abbisani. Sì, vabbè, sempre rischioso, Emanuele. Sempre un rischio, vabbè. Va bene che va bene, dai. Io sono qua. Però se non ti trovi una posizione, un antennino, non lo puoi mettere un antennino piccolino? Già la posso mettere, adesso per il momento sono fermo, dai, vediamo un po', dai. Vedi un po', io faccio fatica ad ascoltarti comunque, già ti sento, non c'è problema. Ma in mezzo al quaderno arrivo? No, apri lo squelci ma sei senza segnale. Sono dentro casa, dai, in casa già ci sentiamo, dai, ok. Va bene, dai. Io sono anche in ascolto sul 20, sul 10, sul 23, da tutte le parti sono. Via, ok. Per il bella. Beh, Casare. Vabbè. E mi stavo chiamando a Flip, ma c'era Manuele. Vabbè. Qua siamo. E quando la piazzi quell'antenna, lui? Vuole mattino. Cazzo, sono lì zinco, già fa appendici, già ma la bocca piena, sì. Mi sono riposato un po'. No, c'è la torta ancora, se si rovina, là. L'ho fatta domenica, insomma, ricordo. Oggi non passi di torta. Va bene. Ehi. Ma baracchino non ce l'hai lì? Ma in cucina, no. Ah, in cucina sì. Va bene. Stavo pensando. Faccio un palo. Fai mezzo metro, sarà. Voglio infilare quel palo lì e metterla al contrario, a testa in giù, nel palo dell'antenna di mamma. Tante cose si possono fare, lui. Tanta attrezzatura ci vuole. Se lì prendi due staffette palo palo, ti agganci a quello di tua madre, oppure abbassi, ti ho detto, leggermente l'antenna della TV e ti agganci lì, in quello tuo, che mi sembra che vada meglio. Ci salgo sopra, qualcosa lo faccio. Però dove era prima è più alta, capito? Rimane più in alto rispetto a quella tua, l'antenna. E solo mi devo saldare il PL anche, mi devo portare la corrente su. Cazzo, questo è un casino. Cazzo, con tutti i rigorsi che compareggi, costa una coglionata, comprati un saldatore a gas. Non so, lo devo comprare qua. Non è che l'ho dato un gnadì, Che cosa m'entra? A chi ho tutti i lì tratto? È che non te lo do il mio perché si è rotto. Mi è caduto per terra e si è rotto, però io lo usavo, quando mi serviva lo usavo, capito? Però io non ho problemi, hai visto come sono organizzato su, no? Io mi porto la prolunga, attacco la presa e me lo saldo, non è che sono qui in altra gabbituria, sono dentro casa lo stesso, lì ci sono le prese, c'è la luce, c'è tutto. Se no devo smontare tutto il capo, poi un casino, devo andare da chi di sopra, come un legale, no, cerco di... un rimedio lo trovo. No, io non ho bisogno di niente, prolunga e nulla, per quello non me l'ho più comprato, saldatore a gas, capito? C'è la luce su, ci sono le prese, porto il saldatore e me lo saldo su, se lo devo saldare su, come ho fatto l'altra volta con quello là, per non staccare il cavo. Me lo saldato su, no? Facciamolo conto comunque, saldato, quello c'è costo e bene. Costicchia, no? Li ho visti. 15 quanto euro costa. Ma cosa? C'è andato a gas, ma ho saldato nel serio, però no, dici il ginesio. No, no, lo mio è serio, ti mando la foto. È che si è rotta la... Non schiacciami, non accende. Non so se si è rotta la pietrina, se si è rotta la molla della pietrina, non lo so. Cazzo non so, il mio è serio. Aspetta un attimo, Cla. Dimmi, Giulio. Buono, buono, segnale 2. Segnale buono, buono. Cosa, giù, scusa? Ho tagliato qualcosina per quanto adesso, sul da avanzare. Sì, segnale 3, quasi 4. Sono qui, per carità. 90 cm di cavo parziale e passa l'antenna. Allora, questo bisogna fare. Anch'io ce ne ho di quelle antenne lì. UHF per la macchina, anche bibanda me l'avevo fatta. Con un elettrodo. Un elettrodo da 3,25 fatto a misura. Capito? È entrato il PL dentro e messo una punta di stagno e l'antenna è fatta. Cosa stavo dicendo? Però c'è basso di radio, come mai? Beh, perché sto parlando a voce bassa, che sono praticamente interrato, non vuol dire che mi sentite tutto il quartiere, capito? Ah, ho capito, capito. No, va bene, ottimo segnale. Ok, va bene, ma solo sì. Sì, c'era Luca Manicomio, però si è allontanato. Poi c'era Coso, come si dice, Manuele, però ecco il gommino arrivava a basso qua, boh. Va bene, dai, ecco là, l'ho fatto, è giusto perché va bene, adesso va bene, ho qua, dopo quasi una punta, naturalmente, perché se no come faccio? Sto mantenendo un pezzo di tubo di plastica sul davanzale, ho messo un tubo da davanzale, va bene, allora, sì, completa tutto il sistema perché va molto bene, così ti porti il cavo e parli anche da giù, capito? Poi sono sul canale 10, dai, ok, ciao. Mi ha chiedato un club. C'è qualcuno in ascolto? Sì, mi è Natali. Ciao Claudio, buonasera. Ciao Natali, buonasera. Mi ero sul 10 con Luca. Allora? Ma ti ho sentito che lì non mi va, capito? No, lascia la pillia, fottidini. Parla qua, se devi parlare. No, io c'avevo il volume basso, non ti ho sentito. Adesso ho visto lo smitter muoversi e quindi ho sollevato il volume. Allora, passo il volume. No, c'avevo il volume basso, Natali. Poi è spostato un po' più verso la finestra le V e le U, capito? Quindi secondo come metto non vedo lo smitter. Mi sono spostato un attimino e ho visto che c'era qualcuno che stava chiamando. Allora ho sollevato il volume. E allora, tutto a posto, che antenna stai usando? Quella là? La Sulica sto usando, da che avevo nella macchina, quella l'ho piazzata pure, ricevo tutto, l'ho attaccata al ricevitore, quella che conosci tu. Ma io direi Giuditto, non c'erano dubbi, quella è una signora antenna. Una signora antenna, la fanno ancora e costa una barca di soldi, costa più di 100 euro quell'antenna, lo sai? Già me lo ricordo che costano un sacco. Addirittura l'ho messa senza la base magnetica, è attaccata a una staffa quella lì, fuori, attaccata al palo dell'antenna. E quella piccolina che avevo fatto per ricevere l'ho messa nella base magnetica. Hai fatto bene, hai fatto benissimo. Quella è una buonissima antenna, cazzo, me lo ricordo io, quando l'abbiamo usata. È una buonissima antenna. Ricevo tutto con quella lì. E c'è sempre il ricevitore, no, attaccato. Così posso ricevere. E si è deluso veramente. Non pensavo ricevesse così, per essere così bassa. No, ma te l'ho detto, c'è un'ultima recessione. Perché io ho la NR770 nella finestra e riceve Alghero, riceve tutto. Sono antenne ottime, sono acciaio inossidabile, fatte bene. Poi sono della Diamond, no, buffoneggiano, non sono antenne di plastica. Va bene che va bene. Quindi là sempre il solito problema, non puoi entrare in 27, no? Ma lo sai che ho girato l'antenna per mettere ruota su se stessa l'antenna, no? E per mettere dritta l'antenna, quella che sai, l'ho girata, non lo so se disturba adesso, magari ho girato il radiale e non disturbo, però non lo so. Devi fare le prove, Natali, devi andare e dire guarda che ho provato, sto facendo una prova, accendi e dovete parlarne, è un casino, non so cosa dirti qua, è veramente un peccato avere le cose e non poterle usare. Sì, infatti, lì già mi dispiace, mi tocca stare in ascolto tu. Anche perché hai speso soldi. Anche perché hai speso soldi, hai comprato il radio, hai comprato tutto, l'attrezzatura, cavo, antenna e tutto, era poi bagoscia, fare un po' di idratare. Può darsi pure che non disturbi adesso. Può darsi pure che non disturbi. I radiali li hai messi verso il vicolo? No, adesso non lo so come è messa, perché con la staffa mi l'ho girata e ha girato l'antenna, dimmi tu. E magari adesso non disturbo pure, bisogna vedere, perché l'antenna adesso è spostata, i radiali sono spostati, può darsi che non disturbo. Sì, ma infatti, però come fai a saperlo? Bisognerebbe fare delle prove. Sì, infatti, l'altro giorno sono andato all'ospedale e fa la giostra, vero, lo specchietto della macchina a Pinzuroni, dove se me l'hanno preso a calci. Tutti, Natali, tutti, anche a me me l'hanno rotto e l'ho cambiato. In via Roma c'è una banda che sfascia specchietti, graffia le macchine, mi hanno rifurato lo stemma dell'Alfa, l'ho dovuto comprare nuovo e me l'ha messo Roberto, perché c'è da aprire il pannello del cofano, smontare il dado, capito? Sto facendo un sacco di danno e so piccinetti, che si ragazzi l'ammazzo. Sì, cosa pure, la mia era davanti al tabacchino proprio e non mi ha voluto far vedere le telecamere, quella bastava per sapere chi era, capitola, a chi si complicare da mezzo in di capo. Questa volta si mi messo la regione, mi sono toccato la macchina nera, ma vai, cosa ricordo? Lo so. A me mi hanno rotto lo specchietto due mesi fa in via Roma. E l'altro giorno, quando è, ne ha 15 giorni fa, mi hanno portato via il fregio dal cofano posteriore, capito? L'ho dovuto ordinare perché la Fiat non ne aveva, la Upas, l'autoa non ne aveva, quindi l'abbiamo dovuto ordinare. E curtato un sacco di anni. Vabbè, pazienza, cosa vuoi fare, tanto. Cosa fai? Se non sai chi è, con chi te la prendi? Infatti, quando non sai chi è, quello è finito da Arezzo, quando lo prendi queste cose. Me l'hanno proprio rotto da dove c'è il supporto, vuole nuovo supporto. Adesso quando riuscirò la pensione me lo comprerò. Vabbè, andrò a Roberto, me lo porto due attacchi, ma ci fosse questo qua. Ma chi mi si dà un euro, mi ha messo da pusella in macchina con un amico senza vane, forse ne è nuda. Tutto a me stanno capitando. Allora dopo Lippina, Natali. Sì, anche a me me l'ha piazzato Roberto, perché non è facile. Il mio è tutto elettronico, capito? C'è anche addirittura il coso per la temperatura esterna, è lì nello specchietto, capito? Vabbè, no, io l'ho preso lì alla Upas, non l'ho pagato molto, l'auto costava 130 euro, io l'ho pagato 80, originale Alfa Romeo, capito? Oggi avete ricchi. È un casino, la macchina bisogna tenerla dentro, però mia figlia quando va al lavoro lascia in via Roma e viene fasciata. E invece il fregio li hanno preso a San Giuseppe qua, giù dove c'è la chiesa, l'ha parcheggiata lì, è rientrata tardi, verso le 10:30, alle 11, è andata a prendere la macchina e non c'era il fregio. Figlio di bagassa. Luca, qui sei, Luca! E deve essere che sta saldando, boh. Si chiede a tenere in soffitta. Ma ti dico, io ti ho fatto il ricovero, ho fatto tutte le analisi, speriamo che mi chiamino. Così. Abbiamo paura che se ora sta. Dico di sì. E poi dopo un mese che mi hanno fatto questo, l'intervento mi fanno quello del libro. Ehi, piano piano già ti metti a posto, dai. Già andavè, Natali, piano piano, vedrai. Sì, speriamo, va, me la sto passando male. Ho dimagrito 15 kg, avevo dimagrito così. Ma a 50 kg, di pantalone vado a 44. E io ho dimagrito 15 kg, quasi, 13. Non pensare che, ma ho dovuto farlo perché ho problemi alla schiena e quindi ho dovuto fare, però sto molto meglio, non sto più scendendo, non sto più andando da nessuna parte, quindi già va bene lo stesso. E io invece non ho di mai rifugiato, però mi in questa banca a Ciccio, quella lì mi ha scatenato anche il diabete. Vabbè. Natali, mi devo allontanare un attimo, ci sentiamo dopo, ok? Già sono qua. Sì, chiamo ogni tanto, però fatti sentire che ci sei. Che c'è sempre Luca qua e già li senti, capito? Ma non risponde nessuno quando chiamo. Ah, ti so cuo mai. Poi forse sempre vendere roba. Tanti volte lo chiamo a Luca e io non rispondi. A voi chiama Edo. Quando chiama entra, se entra qualcuno entra, intanto ti sentono tutti. Se ti sento io qua ti sentono tutti. Ok, va bene, ci sentiamo, buon proseguo, Luca. Sì, Natali, già sono qua, me devo allontanare un attimo che mi sta chiamando mia moglie, poi già torno. Sì, avanti. È successo, due buste. Prova Claudio, mi senti? Ehi. Guarda com'è che ho allargato il forellino del microfono, sei sempre brutta. No, va molto meglio. Ho fatto un bel forellino, era chiuso, era. va bene, dai, ok, kappa kappa. E io passo al 10, va benissimo lui. E io al 10. Arrivederci. Peppa, dormitasi. Peppa, dormitasi. Vieni a scattare un pesce, vieni. Prova, prova, prova, prova di modulazione. E beh, flu flu, avvisi. Per quanto riguarda le etichette delle emoculture di Ardo, dobbiamo aspettare come poco fa, sta chiamando. No, finito, sono qua, non c'è la partita, vai, rimango in quel Rix, ok? Ciao, oh, Claudio, va bene. Cadare! Ehi, c'è la Juve in Champio, vai, mi sto guardando la partita. E dov'è? È su Sky, Ho capito. Ci sentiamo dopo, dai. Ehi, manda bene. Non è piazzata l'antenna, no? No, non ce l'ho fatta, Claudio, perché mi hanno chiamato una vicina di casa per avere due televisori a sistemarli, capito? Passo che siga. Ehi, ehi, ciao, Tony. Va bene, dai, te la piazzi domani con calma, cazzo, non c'è problema. Dai, ci sentiamo dopo, ripeti, Tony. Ciao, Claudio. Ciao, Luca, sei basso. Mi senti, Tony? Sono col gommino. Ah, è per quello, che ci sento basso basso. Che pagava? Anda bene. Sono Kawasaki. Tra poco mi preparo gli spaghetti con il pomodoro per ciliegino e il basilico. A me, Tony. E io? Sento che mi piace. C'ho la due stanotte un po' di, ho fatto di, come si chiama? Orecchiette con i broccoli e un po' di panna, capito? Una fesseria a farle, anche quelle sono buone. Sì, ma con la panna è un po' pesantuccio, capito, Cla? E io ci devo andare cauto. Non le metti in panna, fai i broccoletti, soffritto di broccoletti con la cipolla, per appena di pepe. E basta, poi ti bollisci la pasta, un pochettino di olio naturalmente, ti condisci la pasta, la butti in mezzo, te li salti, esce un capolavoro lo stesso. E lo so, già la conosco, l'ho fatta tre volte, pasta e broccoli io, a voglia. Però giustamente la panna per me è grassa, capito? Devo eliminare molta roba, questa roba grassa. Tutto qua. Vabbè. E oggi avevamo fatto uscire, dai. Dai. Ci sentiamo a testa. Asso di un'esenia la Juve, maledetta bastarda. Ci sentiamo dopo, raga. Sì, avanti lui. Ehi, acla, dopo, dai, ciao ciao. E mi sono qua su eBay e sto ordinando una scheda. Vabbè, dai, continua, che io adesso mi preparo qualcosa, mi preparo per dopo. Dai, ci sentiamo più tardi. Ehi, a dopo, ciao. Ciao, ciao. Io non gli ho fatto niente. Hai fatto bene. Verdi conferma. Ora ti dice per manca. Ok. Sì, già sono qua anche, non c'è problema, sto guardando la partita. Abbiamo fatto di terapia, sì, la mossa in marina che te lo prendo, lui serve la 2 ml o la 7 da alta, grazie, per favore li fai vedere dove sono i due spazi, abbiamo sostituito la